Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. E buonasera e bentornati a Ethno Chic. Questa sera abbiamo con noi Emmanuel Sigal, che è una cantautrice, giusto? Sì. Franco-israeliana, che comunque ha anche, diciamo, un terzo della sua esistenza qui in Italia, possiamo dire così, giusto Emmanuel? Giusto, buonasera a tutti. Che ci presenta il suo ultimo lavoro che sta portando in tournée proprio in questo periodo in Italia. E ha già fatto una data al Cantina Bentivoglio lo scorso 14 febbraio e prossimamente farà una data anche a Ravenna, giusto Emmanuel? Giusto, siamo il 23 al Festival Jazz Festival, il Crossroads Festival a Ravenna. E il 23 di marzo, dicevi? 23 marzo. E questo tuo lavoro si chiama Tabula Rasa, che vorrebbe dire tabula rasa, giusto? Clean Slate, sì. Cosa ci puoi dire di questo tuo lavoro, che poi non è il primo lavoro discografico? No, direi che è una continuità del primo, che è tutta un'altra cosa. Tabula Rasa praticamente è un viaggio interiore dove possiamo sì, osservare da più vicino i nostri aspetti. Insomma, un viaggio anche un percorso musicale un pochino più intimista, in qualche modo. E direi che la musica è l'instrumento che mi piace, ovvio, esprimere questa strada, diciamo, attraverso la musica. Io partirei già subito con un ascolto da questo disco. Partiamo dal primo brano, magari, che dà il titolo alla... Andiamo con te, Albus. Yes. Tant pis si mes manières sont pas les bonnes. La différence fait tourner le monde. Foutant la main pour retenir les choses. Sinon elle passe, elle s'évapore. Sinon elle passe, elle s'évapore. Comme ça. Je me dis qu'il est grand temps que je fasse ta phrase. L'amour est là partout, il suffit de le voir. Je me dis que je veux plus m'asseoir à tes côtés. Mais prends le train, c'est bien, mais le bon c'est mieux. Prendre le train c'est bien, mais le bon c'est mieux. Le bon c'est mieux. Son âme. Je me dis qu'il est longtemps qu'on fasse l'amour avant que tout passe, que tout s'écroule, avant que tout passe, que tout s'écroule, oui que tout s'écroule, avant que tout passe, que tout s'écroule, avant que tout passe, que tout s'écroule, avant que tout passe. Thank you. Ed eccoci di nuovo qui in studio su Etno Chic, Radio Città del Capo, con Emanuele Sigal. E questo era proprio il, potremmo definire insomma, il, l'eponimo, il, la traccia che dà il nome a, al, al, all'ultimo disco appena uscito nel 2017. E come dicevo prima, Emanuele, fuori onda, insomma, questo disco richiama un po' un'atmosfera francese, un po', come dire, multiculturale, un po' che ricorda altri gruppi anche di quando ero più giovane io, come le Negresse Verti, insomma. Quindi qualcosa di molto eclettico che esce un po' fuori dalle etichette di genere, come possiamo definire questo tipo di musica. E Emanuele. Cosa posso dire? Sì, Table Rase infatti non è un album, o in genere la musica che faccio non è mai stata, non è che possiamo classificarla. È quello che mi piace alla fine, non cerco di essere classificata e quindi lascio anche una certa apertura alla gente di venire a sentire qualcosa senza essere identificati a un con genere. Con un pubblico, sì, particolare. E ti volevo chiedere, Emanuele, tu come ti sei avvicinata appunto alla, a questo mondo, al mondo musicale, anche al discorso di appunto di scrivere qualcosa di proprio e poterlo esprimere attraverso la musica? Penso che l'istrumento, io non sono musicista, nel senso che lo faccio senza la parte intellettuale, non scrivo le note, la parte teorica. Non scrivo le note, o mi viene una melodia così che comunque sì, compongo, suono il pianoforte e la chitarra. È un modo di accompagnarmi e dare le prime, è come una pittura, le prime righe così. E dopo mi arrivano delle parole, nel senso che mi piace. Quindi parti dalla parte melodica, da una melodia, insomma, che in qualche modo vai a cercare. Penso che questo percorso che ogni di noi vive, no? Che è conoscere questa libertà che siamo, e che fino che riesci a realizzare questa cosa, beh, devi camminare e capire tante cose. E la musica è semplicemente un strumento che mi sembra molto leggero per poter vivere questa cosa che è molto forte da vivere. Comunque sì. Quando si canta è molto più agreabile anche. Beh, certo, anche perché il canto è uno strumento che abbiamo naturale, che portiamo con noi, e in qualche modo è la nostra possibilità, insieme al linguaggio, di esprimerci, insomma. Sì, molto spesso questa cosa non la si prende in dovuta considerazione. Proseguiamo con Rien qui des yeux pour toi. Rien que des yeux pour toi. Là où la lune est pleine et blanche, aux côtés des étoiles filantes, on bat une porte impatiente d'être poussée par des chaussures conçues pour être usées. Dorée du feu et cela, si ma terre bien de solitaire et l'invention de loup en poudre attend toujours qu'on la découvre. Oui, mais moi, je n'ai que des yeux pour toi. La tête là, rien que des yeux hors du temps et de l'espace. Chut. Et comme disait Blake dans ses chants d'innocence, in a white flower to hold eternity in the palm of my hand, and infinity in an hour. Yes, I do when I have only eyes for you. La la la la, only eyes. La la, only eyes for you. La la la la. De pierre cherchant à illuminer l'autre côté d'une pièce à explorer, une lune impatiente de jouer son tour pour éclairer un carnaval entre deux tambours. Il existe des milliers de livres, des milliers de leçons, mais au final ma seule passion c'est de commettre des infractions. Avec des yeux pour toi. quindi parlavamo degli arrangiamenti anche, no? Ci sono, oltre a questi musicisti, mi pare tutti i romagnoli che suonano con te il disco, e anche in tour cioè, sono stati importanti arrangiamenti di Marc Ribot, giusto? Sì, infatti il disco è stato registrato al... al Lido di Dante a Ravenna, la casa discografica si chiama Butto e Moderne, sto collaborando con loro da 2 anni e il mio produttore che è Francesco Giampaoli è anche il contrabbassista che ha suonato nei 2 dischi e che suona anche in tournée con te. Giusto, ho questo onore di poter oggi portare i musicisti che hanno partecipato a al disco, che sono quindi Francesco Giampaoli al basso, c'è Marco Bovi alla chitarra, Diego Sapignoli sulle percussioni e Enrico Farnedi sui fiati e ho avuto di nuovo questo bellissimo incontro con Marc Ribot, quindi questo chitarrista meraviglioso che suona in ben 6 tracce di questo disco. L'abbiamo sentito sia nella prima traccia, nella seconda traccia e lo sentiremo anche nelle prossime 3, giusto? Mm-hmm. E quindi è una collaborazione stabile che pensate di riproporre anche in futuro? Dicevi che hai dei progetti anche per il futuro musicale. Sì, intanto mi preoccupo del presente, però sì, direi che va avanti e di nuovo mi sento molto onorata di poter presentare al pubblico italiano questo lavoro. E andiamo quindi con la terza traccia, che è Laisse le parler. Laisse le parler. Laisse le parler. Laisse le blablater, Jackie. Ces gens qui ne te comprendront jamais. Et alors? Et alors? Mais non, tes rêves ne se sont pas perdus, c'est toute une question de persévérance. Persévérance. Ne cherche plus dehors ton paradis perdu, c'est en toi qui rayonne le royaume infini. Infini. Laisse-le briller, laisse-le chanter. Mais n'y laisse surtout pas entrer, Jackie. Les mâles lunaires. Ouh, ouh, ouh, ouh. Laisse-les parler, laisse-les parler. Ceux qui n'ont jamais su différencier entre l'est de sensibilité et l'est de stupidité. Un jour, quelque part, quelqu'un t'aimera pour ce que tu es. Oui, pour ce que tu es. La la la la, la la la la. Let them talk, let them talk. They will never know the greatness of your soul. Let them talk, those who will never understand the difference between the S of stupidity and the S of sensitivity. La la la la, la la la la, la la la la. Somewhere someday someone will love you for what you are. For what you are. Somewhere, someday, someone will love you for what you are. La la la la. La la la la. La la la la. Un giorno da qualche parte qualcuno ti amerà per quello che sei. Laisse-le parler. Questo brano praticamente è Vladimiro. È un brano per quelli che fanno questa strada a cercare questa cosa che non si spiega. Mm-hmm. E su questa strada qualche volta hanno il dubbio. E quindi e tante volte la gente che vedono gentilezza la confondono con stupidità, quindi dobbiamo lasciare le blablette parlare. Si dice anche blablette blaterare. Esatto. E notavo anche una cosa, insomma, che c'è il gusto in alcune tue canzoni proprio di passare dal francese all'inglese, quindi a fare una specie di mélange, no? Di melting pot di cose. Mm-hmm. Sì, così anche si può essere, non lo so quanti veramente cercano il senso delle canzoni. Infatti, però. Si diceva appunto che tu prevalentemente hai fatto, cioè questa tournée la stai facendo adesso in Italia e i concerti li hai fatti per adesso soprattutto qui in Italia. Mm-hmm. E quindi si diceva appunto di un pubblico molto spesso disattento sul contenuto reale di quello che vai a proporre, non solo come testi ma musicale, magari più attento all'apparenza, cioè a come si sta sul palco, cose che molto spesso purtroppo sentiamo dire e ripetere quasi come qualcosa che deve essere quasi più importante dell'aspetto musicale o creativo anche sui testi, sull'uso delle parole. Giusto, però penso che anche quando non capisci le parole c'è una certa sensibilità che ti tocca o no? Esatto. E come lo dicevo, te lo spiegavo prima e lo spiego sul palco in un modo molto breve, che l'artista è il dita che punta la luna e spesso la gente guardano la dita, si dice la marca, il dito no, la marca, la marca, la marca dita, delle la marca, scarpe, sì, il logo, sì, esatto, però sì, va sì. Bene, no, non c'è problema, è tutto benvenuto. La cosa che penso che anche quando non si capiscono le parole c'è sempre la melodia che tocca, sì, anche la musicalità, ogni linguaggio, no. Sì. No, assolutamente, la musicalità è importante, anche come si dicono le cose, l'interpretazione, però insomma per questo ci vorrebbe forse una maggiore attenzione in questo periodo, purtroppo manca. Mm. Andiamo con la quarta traccia, che è Bless. Twisted. When he had never walked down the road before, I saw a child who was asked to be quiet. When his only sin was telling nothing but the truth. I've seen people who claim to be good when they did not even know what to look at each other's eyes. I've heard a man say that he never received. When giving is receiving, giving is receiving. Bless, bless all their ignorance. Without them, I could never be reborn. Different ways they will judge me, or better try to shoot me if they can. Try to steal my dress and hide my shoes away, but my feet they won't ever get. Their wickedness. Without them, I could never be reborn. About instinct, that all you've got to do is to trust yourself. I've heard a man say it's all about instinct. All you've got to do is to trust yourself. All you've got to do is to trust yourself. All you've got to do is to trust yourself. Quindi questa era Blesso, di cui raccontavi un po' la genesi, no? L'origine del brano, giusto Emanuele? Sì, Blesso praticamente è un brano dopo una certa, diciamo, distanza di eventi che possiamo passare nella vita, che possiamo anche giudicare come tristi o duri o anche al contrario. Sono questi momenti che ci fanno crescere e rinascere, perché senza questi eventi non possiamo prendere coscienza di quello che... E invece il prossimo brano, Small Talk, che stiamo vivendo. Small Talk è un brano che si chiama Small Talk. È Small Talk, Small Talk, Small Talk. Dobbiamo ascoltarlo. Thank you. just love every moment of my life. So when you tell me I could act a bit more sexy, well, I really think you know nothing about real ladies. Now, if you really wanna know, I fell in love with a real man. He's got the same blue eyes of Jacob Dylan, and I don't need any special dress to impress him. We know how to impress each other. Out of a fashion magazine, all this atmosphere makes me feel, all this atmosphere makes me feel uncomfortable, uncomfortable. So if you really want to know, I prefer to drive my small car, music on, music loud, air in the wind, or just to hang around with some beautiful strangers I meet. Loud and some beautiful strangers I meet, to sing loud and free. Oh, oui. E quindi dicevamo appunto di questa particolare diversità, insomma, c'è questa atmosfera, insomma, testi piuttosto riflessivi, insomma, di presa di coscienza delle cose o di situazioni in cui ci si trova. E invece a contrastare questa musica, insomma, che dà questo tocco un po' di leggerezza, leggezza, insomma, no? Sì. E quello che dicevo prima, cioè, si deve, va bene, c'è questa queste domande che ci facevamo, però la prima regola per me è di mai prenderci sul serio. E Small Talk è uno dei brani che si può semplicemente definire in questo modo. Fun. It's fun. Yeah. E poi appunto notavo questo fatto che anche se negli arrangiamenti, insomma, c'è chiaramente un'impronta strumentale di arrangiamento che mantiene una linea condotta, un certo filo, però ogni brano ha, come dire, un suo carattere particolare, insomma, quasi appunto quello prima riecheggiava quasi una ballad nordamericana, insomma, anni 70. Questa invece era quasi un po', come dire, quasi calypso. Un po' calypso, insomma, musica del Caraibi e così. Anche ogni musicista ha messo il suo tocco personale, una cosa che tengo a dire, che per me è importante, anche se io do le parti o la melodia, le parole, certo, dopo sì. È importante per me di lasciare su quell'impalcatura, comunque c'è una grande libertà di espressione, quindi diventa quasi un disco corale in qualche modo, no? Insomma, proprio si sente un'impronta del gruppo. Che sono comunque una parte inseparabile del disco, devo dire. Prossimo brano, Never Give Gem to Pigs. Pigs. too big, so no, no more, no more. I will never give Jen too big, so no, no more, no more. Au cochon, non plus jamais, non, non. Je ne donnerai plus de la confiture au cochon, non plus jamais, plus jamais. Sentivamo anche questa citazione in questo brano un po' manouche del western di Morricone, no? Il buono, il brutto, il cattivo. All'inizio, insomma, quasi una sfida, insomma, no? Quasi... Never give jam to pigs. No, non si dà la marmellata. Non si dà le perle ai porci, come sì, si dice. Sì, come dici? Sì. If you give jam to pigs, stop it. Sì. Cioè è stupido dare le perle ai porci. Stop it. Quindi se lo fai, smettilo. Sì, sì. Punto. E anche questo con molti, molti colori musicali che appunto dicevi, insomma. Anche questo è un brano fun. Di... No, no, no. Anche questo sì, un brano divertente, un brano allegro, sì. Ah. E quindi, no, dicevo, insomma, questo fatto, insomma, del, anche qui di dare una coloritura, no, nel... si sentono proprio tutte le voci di tutti gli strumenti. È un grido allegro, diciamo, che un grido comunque è una certa rabbia, però che diventa non allegra, però è sì, un modo di, infatti, di liberare questa... Non è un po' cattivo, però... Sì, però in un modo, come dire, quasi ironico, ironico, insomma, quasi che non vuole drammatizzare. Sempre. Il prossimo brano che si chiama Clean Me Rain, quindi Clean Me Rain è lavami pioggia. Sì, lavami, puliscimi. Grazie. Purificami pioggia, e praticamente ci sono delle valigie che non siamo, che non sono le nostre. Clean Me Rain. Thank you. Allora, il prossimo brano si chiama Telephone Call from Istanbul. Ed è un brano di Tom Waits. E che non è il mio. È l'unico brano che mi sono permessa di fare un covering. E, ma dopo magari spiegherò un po', per chiudere questa sì. puntata, il concept del disco di nuovo. E quindi adesso ascoltiamoci questo brano di Tom Waits. All night long, broken glass, living in a medicine chest. Mediterranean hooter back, spread across a rolled top desk. The monkey water played on the overhead sun. The painted tanky blue if you pay. I got a telephone call from Istanbul. My baby's coming home today. Will you sell me one of those? Shave my head. Get me out of town is what Firebird said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's festival, Friday's a gym. Dye your hair yellow and raise your ear. Follow me to beauty's on Dry Creek Road. I got to work, head to twine. Baby done so. My baby done so. My baby done so. Long on a broken glass, living in a medicine chest. Medicine, a median, bag, spread across a rolled top desk. The monkey rolled a blade on the overhead fan. The painted tanky blue is the pain. I got a telephone call from Istanbul. My baby's coming home today. Will you serve me one of those? Siamo quasi al termine, giustamente si Emanuele ripiloga un po' quello che è un po' il concetto base di tutto questo tuo lavoro, Tabula Rasa. Va bene, ci provo. In sì. italiano, già in francese, che è la mia lingua madre, vale. Faccio fatica, però praticamente anni fa ho fatto un viaggio lontanissimo e magari era così lontano che che sono scappata di questa cosa, e da qualche anno ho deciso di infatti provare a ricogliere questa esperienza e questo viaggio praticamente, che è stato fatto naturalmente senza droga e senza altre sostanze additive, no mushrooms and nothing, neanche l'alcol. E comunque questa cosa che praticamente abbiamo quando siamo molto piccoli e dimentichiamo. E questo viaggio che ho avuto, praticamente mi vedevo come un granello di sabbia, e piano piano ho realizzato che ero anche il deserto, e piano piano ho anche realizzato che ero la cosa, per non dire la persona, perché la persona non c'era, che osservava questa opera d'arte. E alla fine mi sembra che ho realizzato alla fine un tipo di natura che siamo, è una cosa molto intima e molto bella. Però si deve sapere coglierla. E se no, infatti, scappi per degli anni. E per me tabula rasa era infatti di fare tabula rasa con tutto questo, di questo fare un momento po' che una specie sono di riepilogo, no? Che infatti di riprendere questo momento che ci siamo divisi di questa apertura e tornare verso questa cosa, è così che è nato tabula rasa. Volevo anche dire che potete trovare, seguirmi e la mia band. Quindi Emmanuel Sigal, giusto? Con la I. Emmanuel con 2 M 2 L E, Sigal. Con la I. Con la I, giusto. La I. Su Facebook mi trovate, quindi Emmanuel Sigal o Emmanuel Sigal Music Page, ci sono tutte le prossime date che facciamo. Che riepilogando quelle più vicine nel tempo sono 10 marzo, giusto? 10 marzo dovevamo essere il 27 a Ravenna, però visto che abbiamo un problema di meteo. Quindi 10 marzo è spostato per il 10 marzo al Teatro Sociale a Ravenna. E poi dicevi ad aprile? Il 23 marzo facciamo il Crossroads Festival a Ravenna, e l'11 aprile a Livorno, e comunque ci sono altre date per l'estate. E poi per riepilogare, prima di sentire l'ultimo brano, dicevi anche appunto che il disco per i bolognesi, per chi ci ascolta a Bologna, si può trovare al negozio di dischi Sam in via Oberland, giusto? Giustissimo. Emanuele, io ti ringrazio molto, ti saluto e ti faccio tanti auguri per la tua attività e per questo tour che sta andando avanti. E ci rivedremo presto e vi lascio con questa ultima traccia, Non lo so. Grazie a te, Vladimir. E vi diamo la buonanotte. Grazie a voi. Better.